Birgitta. Nei primi tempi si aspettava in ogni istante della giornata che dei poliziotti venissero a bussare alla porta della sua classe e la portassero via in manette. Ma i poliziotti non si erano materializzati e non c'era stato nessun interrogatorio e nessuna condanna. Prima di restituire la macchina a noleggio con cui era andata a Abby, l'aveva portata in un'officina dove aveva fatto sostituire il finestrino rotto pagando in nero. Il male che le invadeva il corpo stava peggiorando. La stanchezza ormai era una condizione cronica. Eppure, continuava a ignorare le convocazioni in ospedale. Non voleva mettere in imbarazzo i gemelli. Non voleva scoprissero che il padre era uno che picchiava la moglie. Negli ultimi tempi, Jacob era diventato sempre più feroce, più raffinato nella sua crudeltà. Non la picchiava per farle male, ma per far del bene a se stesso. Sferrava i colpi in modo quasi meccanico, senza mostrare sentimenti. E con la stessa meccanicità e apparente mancanza di sentimenti, Birgitta li incassava. Forse era proprio quello che lo provocava ulteriormente, che lo spingeva a picchiarla ancora più forte. Dopo aver augurato buon pomeriggio agli alunni, raccolse le sue carte, riordinò alla belle meglio la classe e uscì chiudendo la porta a chiave. Nel corridoio, ormai quasi deserto, restava solo Lovisa Steen. «Come va, piccolina?» le chiese Birgitta. «Bene. Sicura?» La bambina annuì. «Come mai sei ancora qui, allora?» «La mamma oggi viene a prendermi un po' più tardi, poi mi porta dalla nonna.» «Che bello! È simpatica la nonna?» Birgitta aiutò Lovisa a mettersi in spalla lo zaino troppo grande per lei e la accompagnò lungo il corridoio con le file di attaccapanni. «Mamma e papà si separano», disse Lovisa all'improvviso, mordendosi le labbra. Birgitta trasalì. «Tommy e Ingrid Steen, la coppia perfetta di Bromma?» Ormai non si poteva proprio mai sapere. Lovisa aveva le lacrime agli occhi. «Oh, tesoro», disse Birgitta, guidandola fino a una panca, per poi sedersi accanto a lei. Non sapendo bene cosa dire, la abbracciò. Poco dopo sentì una lacrima sulla mano e si rese conto che era sua. «Ho un tumore. Sto per morire», bisbigliò.